compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per porti con Giuseppe Pederiali. Il mare non è mai stato amico dell'uomo, al massimo complice della sua irrequietezza. Cominciamo questo viaggio con una frase di Joseph Conrad, perché il mare, per il mio compagno di viaggio di oggi, è davvero stato complice della sua irrequietezza. Lui è Giuseppe Pederiali e prima di fare lo scrittore ha fatto il marinaio. Come si coniuga questa doppia vita? Magari fosse doppia, cioè se continuasse sarebbe molto carino, invece si è molto interrotta ed è rimasta così un po' di nostalgia, un po' di rimpianto naturalmente per le cose, però anche con l'amarezza che così i porti non sono più quelli di una volta, ecco. E le faccio un esempio. Io ero un ragazzino di 15 anni, vivevo nella bassa modenese, lontanissimo dal mare. Il mare l'avevo visto una volta a Riccione in colonia, loro usavano andare in colonia, e desideravo vedere il mondo. Mio figlio, che oggi ha 30 anni, ma già a 18 aveva viaggiato il mondo, è diverso oggi, uno zaino, così molta disinvoltura, la carta di credito del papà. Allora queste cose non usavano e c'erano due soluzioni: andare in marina o fare l'autostop, così, ma non usava neanche quello. Mi arruolai in marina, nella marina militare, feci 6 anni in marina e devo dire che ho visto il mondo proprio, tutti i porti del mondo. E quando mi chiedono: ma sei stato qui, sei stato là, sei stato in California, come no, cosa hai visto la California? Il porto di San Diego. Sì, vabbè, e poi basta. San Diego è uno dei più importanti siti militari statunitensi, con numerose basi della Marina e dei Marines. Dopo l'attacco di Pearl Harbor, il quartier generale della flotta statunitense del Pacifico fu trasferito a San Diego. Dopo la guerra, la presenza della Marina e dell'esercito rappresentò un forte elemento di sviluppo, arrivando a occupare un quarto della popolazione attiva della città. Oggi, sul fronte del porto, il centro congressi San Diego Convention Center, fatto come un galeone e aperto nel 1989, domina tutta la baia. I viali e i moli dell'embarcadero aiutano a farsi un'idea dell'importanza di San Diego come porto commerciale e militare. All'estremo nord si distinguono le navi del Maritime Museum, mentre pochi passi verso sud conducono al Broadway Pier, dove ci si imbarca per il tour del porto. Da Seaport Village, centro commerciale pieno di ristoranti, si vedono le portaerei della North Island United States Naval Air Station. Perché si arrivava nel porto, eravamo anche tutti molto giovani e si cercava compagnia, amicizie, però non c'erano altre spinte per allontanarsi molto dal porto. Per cui io ho girato il mondo e in realtà ho visto una città portuale e basta. In realtà poi le città erano diverse, i porti erano diversi l'uno dall'altro, però avevano tutti così la caratteristica che per noi era molto importante, noi reduci da letture Salgari, non l'ho mai capito, Conrad, Melville, eccetera, cioè il mare, il navigare, il vedere mondi diversi, posti diversi, e in effetti con l'ansia poi che arrivati in un porto c'era sempre la voglia di vedere un altro porto. E così non finire più è un po', credo, la malattia del viaggiatore, del vero viaggiatore: cercare sempre un'isola, un porto diverso dove ci sarà qualcosa di più bello da vedere, bella gente da incontrare, eccetera. Però il mondo l'ho visto davvero. Sono fermo a costruire con le mani il mio ricordo più vero. E se il mio ieri è distante, apro smette mai di soffiare, mai. Ad ogni attracco nasce immediato il desiderio di salpare. Arrivati in un porto, c'è subito la voglia di vedere un altro porto, ci racconta Giuseppe Pederiali. Ma anche i porti non sono più quelli di una volta. E devo dire che oggi purtroppo sono cambiati anche i porti, cambiati nel senso che non c'è più l'esotismo, il fascino dell'esotismo. Oggi il mondo si è tutto, oltre che accorciato per ovvi motivi, ma si è anche proprio uniformato. Le faccio l'esempio: io sono stato in vacanza con mia moglie alle Seychelles. Arriviamo alle Seychelles, appena arrivati, albergo, il solito bungalow carinissimo, vista sul mare, vado a fare la doccia per primo, mia moglie è di là nella stanza con la televisione e sento che ascolta la televisione, alle 6, cosa sta ascoltando? Allora le ho chiesto cosa stai ascoltando, cosa stai vedendo? È proprio una puntata di Beautiful che avevo perduto, anche se in inglese capisco abbastanza bene, per dire che si è tutto uniformato, è tutto... vediamo Beautiful alle Seychelles come qui, certo fuori dal bungalow c'era un altro mare, però non c'è più il fascino così del viaggio, dell'avventura, ecco, dell'esotismo, eccetera. Le avventure di cui Giuseppe mi metterà a parte durante questa chiacchierata hanno invece ancora il fascino dell'esotismo. Del resto, per uno che ha fatto il giro del mondo in nave, è il minimo. Io ho fatto molti porti perché ho fatto il giro del mondo su una nave Montecuccoli, che era della Marina Militare, naturalmente, un incrociatore, e andammo a rappresentare l'Italia nel 1956, a Melbourne, alle Olimpiadi, come rappresentanza dell'Italia, così una bella nave, eccetera. Solo che cosa è successo? Che mentre noi eravamo a Melbourne, hanno chiuso il canale di Suez, la crisi di Suez, il petrolio, eccetera. Allora cosa è successo? Che dovevamo o tornare giù dall'Africa, scomodo, già che c'eravamo abbiamo fatto il giro del mondo. Abbiamo fatto Panama, tagliata l'America, eccetera. Per cui ho visto, quando sono andato a San Diego, è stato per quel motivo, e ho visto un sacco di posti, proprio grazie anche alla chiusura del canale di Suez. E posti molto belli, che però anche lì, sì, c'era il fascino dell'esotismo, però era sempre inquinato da qualcosa. Io sono stato a Pago Pago durante quel viaggio. Pago Pago è un'isola delle Samoa americane, e questi indigeni misti a marinai americani sporcavano le spiagge. Questa spiaggia di Pago Pago, questa esotica spiaggia, spero che oggi per i turisti l'abbiano ripulita, era piena di lattine di Coca-Cola e di altre cose, per cui era più bella la spiaggia di Riccione quando ero andato in colonia. Cioè, vale la pena poi girare il mondo? Non è una domanda da buon viaggiatore, però insomma oggi sicuramente è deludente. Allora c'era qualche delusione, c'era, però insomma è stata un'avventura ugualmente molto molto piacevole. Un marinaio che stanotte porti in porto la mia nave, tu che stringi e sciogli i nodi con facilità. Sarebbe bello senza reti dimenticare il tempo, ma se ne va questo momento, dai, non partire. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per porti con Giuseppe Pederiali. Siamo salpati con Giuseppe Pederiali a bordo dell'incrociatore militare Montecuccoli. Quello che andiamo a visitare però non sono città o paesi, ma porti. Tutti i porti del mondo che sono poi un unico grande porto per il mio accompagnatore, che prima di fare lo scrittore ha fatto il marinaio. Abbiamo già visto il porto di San Diego al ritorno da Melbourne e siamo stati anche a Pago Pago. E non solo i porti stranieri, anche i porti mediterranei, nel senso di casa nostra, più vicini a casa nostra, i porti italiani, La Spezia soprattutto, che è una base militare piena di marinai, eccetera. All'interno di una rada di circa 1500 ettari, protetta da una diga foranea di circa 2200 metri, il porto della Spezia ha oltre 5 km di banchine e 575.000 metri quadri di aree disponibili, con 17.000 metri di binari ferroviari e 3500 metri di strade. Il porto spezzino, nel ranking europeo, si colloca tra i primi per l'utilizzo della tecnologia intermodale, primo per l'utilizzo del trasporto ferroviario ed è collegato con frequenze plurisettimanali con i maggiori terminal intermodali del centro e del nord Italia. È direttamente collegato alla rete autostradale e a quella ferroviaria. L'aeroporto internazionale più vicino è quello di Pisa, a 80 km dalla città. E nei racconti sui porti di casa nostra, Giuseppe tira fuori l'anima da marinaio che ancora alberga in lui. È sempre la zona del porto, poi la zona del porto privilegiata. Mi ricordo via del Prione, che era la via dei marinai. Oggi è diventata la via elegante di La Spezia, con tutte le boutique, eccetera. E c'erano i bar, c'erano le anche delle donne, naturalmente, per i marinai. C'erano le donne dei bar, che erano una via di mezzo tra l'entraîneuse e le prostitute, eccetera. Ma ce n'era una che non dimenticherò mai. Era una signora di una sessantina d'anni, forse anche abbondanti. La chiamavano la corazzata Andrea Doria, perché era come una nave scuola, aveva esercitato la vita, avviato la vita un centinaio di generazioni di marinai. Ma più che una prostituta, era una mamma, era una banca per piccoli prestiti, per favore, tipo, non so, tenere in casa sua l'abito borghese che ogni tanto ci mettevamo in borghese. Allora i marinai, i militari, non potevano mettersi in borghese, dovevano stare in divisa per regolamento. Faceva questi piccoli favori ed era un'istituzione, era lì all'angolo di Via del Prione, dove oggi c'è una elegantissima boutique che stornerebbe questa povera signora. E era gigantesca, era una corazzata anche fisicamente, così simpaticissima. Non so di dove fosse, se di La Spezia o di un'altra città, comunque era una istituzione veramente. E quando ci sono tornato alla Spezia in anni recenti, sono andato a vedere se per caso miracolosamente fosse ancora lì, ma c'era questa elegantissima boutique. Per cui viaggiare i porti, conoscere donne, conoscere marinai, anche stranieri. La corazzata Andrea Doria, che spettacolo! Sul volto di Giuseppe è comparsa un'espressione a metà tra il divertito e il malinconico. Questo viaggio si sta facendo intrigante. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le canne, densi tu du vali, a se mostrani, a neta na punto cu te luagu e a monta la seu garesto diu o diaule in se o sega effetto nio ne shurtimo da uma pesci vai o se da odria a fontana di cumbi tacca de pria e andale e andale e si parlava poi una lingua stranissima, per farci capire non era l'inglese, l'esperanto della marina, era un miscuglio, c'era di tutto, c'era un po' di arabo, un po' di filippino, un po' di tutte le lingue che parlavano quelli che erano di solito facendo il mestiere di marinai, ecco, sia della marina militare che quella mercantile, insomma. Ma oltre alla lingua, cosa ha comune i marinai? O meglio, cosa ha comune i porti, che sono poi i microcosmi dove i marinai si muovono? Alla base c'è il bar. Un porto senza bar era ed è, credo ancora oggi, non ha senso. E il bar e poi anche le case di tolleranza. Case di tolleranza, io volevo andare a rischio tutto sulle case di tolleranza, anche solo come visitatore, perché poi si andava lì soprattutto per passare il tempo in realtà. Mi ero fatto una cultura proprio anche gli arredi, tutto qua, che appunto una cultura da rischio tutto. Il rischio tutto era una trasmissione a quiz e ognuno ci andava con una specializzazione, nessuno osava andarci come con un argomento del genere, però... Argomento scottante, è vero, se visto in superficie, ma raccontato come me lo sta raccontando Giuseppe, è qualcosa di molto più profondo. C'era questa umanità formata da gente che aveva una caratteristica alla base, erano degli spostati nel senso che erano o degli avventurieri o gente che non poteva fare altri mestieri, ma comunque tutti accomunati con una grande voglia di tornare a casa, o meglio di arrivare a un porto dove fermarsi, salvo poi essere spinti a cercare in realtà un altro porto, perché io quando tornai a casa dopo 6 anni di marina e venni a Milano, a lavorare a Milano, e mi sentivo irrequieto, cercavo il porto, non mi bastava la darsena del naviglio, ovviamente, era troppo piccola e poco frequentata da marinai, non c'erano più i paroni delle barche che trasportavano le merci sui navigli, ecco, c'era sempre la spinta, e io ho fatto davvero fatica a buttare l'ancora in un posto fisso, perché c'era sempre la spinta e pochissimi, anzi, i miei colleghi, dei tanti che avevo, pochissimi sono riusciti a fermarsi, hanno continuato magari nella marina mercantile oppure con altri mestieri, ma tutti mestieri vagabondi, tutti mestieri da muoversi, da camminare, da andare in giro, da andare in giro per il mondo, insomma. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per porti con Giuseppe Pederiali. I porti che ci sta facendo conoscere Giuseppe Pederiali sono fatti di bar e di case di tolleranza, ma anche e soprattutto di un'umanità incredibile. Ci sono le donne a fare compagnia, c'è l'amicizia fra marinai fatta anche di scazzottate e c'è la voglia di tornare a casa mista al continuo richiamo del mare. Poi intendiamoci, non è che proprio non vedessimo niente, non so, a Göteborg ho visitato anche una fabbrica di birra, non soltanto i bar, insomma, delle esperienze di alta cultura. Però andare a cercare un museo non mi è mai capitato, devo dire, vergognandomi naturalmente, cercare un museo, il monumento, il coro. E ho un buon ricordo, naturalmente, dei porti. Potrei scriverci davvero un libro, l'ho già scritto, Marinai, che però racconta anche la vita nella scuola della Marina, eccetera. Ma un libro riservato soltanto al mondo dei porti, e questa trasmissione potrebbe essere forse l'input per una cosa, un viaggio solo riservato ai porti di un personaggio o due personaggi che hanno questa malattia del viaggiare, questa voglia che diventa, quando è un po', vale per i marinai ma vale per tutti coloro che hanno così la malattia, il virus, il germe del vagabondaggio, non riuscire a fermarsi. Continuare a girare. Chissà che non ne nasca davvero un libro. Per ora ci accontentiamo di ascoltare i suoi racconti e di rivivere con lui quelle atmosfere. Poi il porto, diversamente dagli aeroporti, a proposito di porti e aeroporti, il porto è grande, ti ospita, ti fa dormire, anche gli aeroporti capita di dormire, addirittura di abitarci come in quel film famoso, però ti trovi in questo villaggio con tutti anche i pericoli, i rischi, le risse, eccetera eccetera, che nessun altro luogo al mondo oltre al porto possiede, e con una fauna particolare. So, per esempio i tatuatori, che oggi sono diventati di moda. Io ho un tatuaggio, oddio, eccolo qui sul braccio destro, un tatuaggio in anni che soltanto i carcerati o i marinai ce l'avevano, per cui infatti io sono uno dei pochi padri che non può dire a suo figlio: scherzi, farti un tatuaggio, ma sei matto, ma ce l'hai da quando ti conosco, mi dice. Per cui c'erano, ecco, i tatuatori. Mi ricordo, io questo tatuaggio lo feci a Malta. Malta era un'altra base dove si andava spesso. George Tattoo si chiamava il negozio, ed era un tipo stranissimo anche questo qui, che aveva tatuato centinaia di marinai, aveva un repertorio di disegni stranissimi, molto belli, ed era anche molto bravo. Adesso si è un po' sbiadito, è un'ancora con il solito drago intorno, l'ancora immancabile che ci distingueva dai carcerati, proprio era quello. Certo, il tatuaggio non poteva mancare. In mezzo ai ricordi di Giuseppe trova spazio anche quello per l'uniforme. Ecco, un'altra cosa che ha cambiato, che ha modificato il paesaggio del porto, è quella che dicevamo prima, non si vedono più i marinai in uniforme, perché adesso i militari possono uscire in borghese, e una volta non si poteva, ripeto, per cui non si vedono, ci sono ma non si vedono. Allora invece vedevi in Via del Prione o a Taranto, in queste basi, proprio questo mare di solini, il solino è quella specie di fazzoletto che hanno i marinai, gli italiani, poi c'erano gli americani, c'erano i marinai stranieri, ed era bello questo mondo, ci si sentiva tra di noi in amicizia, o anche litigando, succedeva, per cui era molto carino davvero. La corazzata Andrea Doria, cioè la signora di La Spezia, che, parole di Giuseppe, ha svezzato generazioni di marinai, è stato il primo incontro con il genere femminile che bazzica nei porti. Niente a vedere con la ragazza di cui sta per parlarmi. Prese una cotta bestiale per Huguette Fitvin, nome e cognome a Tolone, altra base navale francese vicino Marsiglia, così, che era una ragazza che faceva l'entraîneuse in un bar, che è un'usanza questa che in Italia non c'è mai stata, c'è nei locali notturni, nei night veri e propri, ma in un bar, neanche nelle basi navali eccetera, non c'è mai stata la ragazza, che non è una prostituta, va di bene, è una ragazza che sta lì fa compagnia ai marinai o anche altri clienti, non necessariamente dei marinai, e beve e chiacchiera, insomma. È meglio stare in compagnia di una ragazza che di un altro marinaio, specialmente dopo, non so, 20 giorni di navigazione, a prescindere da quello che può essere il risultato finale, ma comunque più divertente. E si chiacchierava, e io con questa ragazza mi prese una sbandata, e siccome che anche lei, insomma, aveva una, cioè, è nata una certa simpatia, ci siamo incontrati anche fuori dal bar dopo, e io la presi pesante, tant'è che volevo restare a Tolone, solo che io non ero un macchinista di una nave mercantile. A un certo punto resta a terra, il comandante si prende un altro macchinista e buonanotte, al massimo vengo licenziato dalla compagnia di navigazione. No, nella marina militare è diserzione, e fu proprio per un pelo che io, con tanti pianti, abbracci, saluti, tornerò al più presto. Poi la Tolone non è che fosse dall'altra parte, non era pago pago. Naturalmente non sono tornato, ci siamo dimenticati, cioè dimenticati, ho dedicato alcune pagine del mio romanzo, ma è troppo poco. Tolone è una città a circa 50 km da Marsiglia e possiede un importante porto che ha ospitato la base navale più grande dell'armata francese nel Mediterraneo. Grazie a questo porto, la città è diventata una ricca zona commerciale e un punto strategico per raggiungere la Corsica. Il porto è molto grande ed è diviso in due zone. Una per le grandi imbarcazioni mercantili e passeggeri, e l'altra per quelle più piccole. Giuseppe però fa il macchinista su una nave militare. Non è che può decidere di fermarsi a Tolone solo perché si è innamorato della bella Huguette. È diserzione. E così una mattina la saluta, promettendole da bravo marinaio che sarebbe tornato. L'unica cosa che rimane di quella storia sono alcune pagine del suo romanzo. «Troppo poco», mi dice malinconicamente Giuseppe. E Huguette, che era, lei veniva da un altro porto, veniva dalla Rochelle, in Bretagna, nel nord della Francia, e si era trasferita nel sud della Francia perché era il sud della Francia è più bello, eccetera, vicino alla Costa Azzurra. Poi, e faceva questo lavoro di intrattenere, eravamo tutti dei ragazzini, perché io sono andato, avevo 16 anni quando ero andato in Marina, sono andato via che ne avevo 21. Cioè stiamo parlando di un'infanzia quasi. Oggi i ragazzi... quanti anni hai? 21, un bambino, e lo sono in un certo senso i bambini, in un certo aspetto sono anche più maturi forse. Allora invece a 21 anni io avevo già fatto questa esperienza, e allora con questa Huguette, che lei avrà avuto, era un filino più vecchio di me, avrà avuto 22-23 anni, con la nostra canzone Le Trend de l'Amour, che poi l'ho ritrovata dopo anni faticosamente, una canzone anni 60 francese, c'è sempre una canzone come accompagnamento musicale di ogni storia d'amore, per cui mi è rimasta molto molto molto nel cuore questa storia. Un train manqué, 10 ans de plus, sur le quai de la gare du temps. Un train manqué, 10 ans perdu. On s'en fout pas mal à 30 ans. J'ai manqué l'heure du train d'amour. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per porti con Giuseppe Pederiali. Abbiamo assistito alla classica promessa da marinaio, quella che Giuseppe Pederiali, il mio compagno di viaggio, ha fatto a una ragazza di cui si era innamorato a Tolona. «Tornerò», le disse. Inutile dire che non si sono mai più visti. È solo una delle storie legate al porto di cui ci ha parlato, lui che ha visto i porti di tutto il mondo. Quel viaggio a Melbourne per rappresentare l'Italia alle Olimpiadi del 56, complice la crisi del canale di Suez, ha infatti costretto la nave dove Giuseppe lavorava a fare il giro del mondo. Che emozione è stata rappresentare il proprio paese, gli chiedo. Niente di speciale, mi risponde, se si parla dei giochi olimpici e delle serate di gala dove potevano partecipare solo gli ufficiali. Però abbiamo vissuto ugualmente l'emozione di essere in un posto, in un luogo, in una città dove c'erano un sacco di italiani che erano lì per motivi diversi da quelli del viaggio, erano altri viaggiatori, ma altri viaggiatori di un viaggio unico senza ritorno per modo di dire, cioè gli emigranti italiani. E ce la spassammo, in realtà proprio invitati a pranzo, a cena, a giocare a briscola a casa di italiani che volevano così. Non c'erano le comunicazioni di oggi, la televisione, queste cose, per cui avevano una nostalgia per l'Italia molto più accentuata, anche perché le possibilità di tornare per un viaggio in Italia erano molto scarse allora. Per cui eravamo così dei pezzettini d'Italia all'estero, veramente, e abbiamo rappresentato degnamente la nostra bandiera, ma in questa maniera, non con i ricevimenti di lusso dei cosi degli ufficiali, ma andando a pranzo un paio, due o tre, uno soltanto, nelle case di questi migranti che lavoravano ormai da anni, che si erano stabiliti in Australia, lavorando, sudando, riscattandosi nel senso di trovando finalmente un lavoro che in Italia non avevano trovato. Per cui fu bello anche dal punto di vista patriottico, ma da questo punto di vista. La classica domanda sull'olfatto potrebbe sembrare una domanda fuori luogo dal momento che siamo al porto, ma Giuseppe mi regala una delle sue immagini intrise di nostalgia e divertimento. L'odore della nafta, dell'acqua stagnante, quello è fisso. Poi noi eravamo di macchine, eravamo anche abituati, nel senso che le macchine, quando si lavorava sporchi nelle sentine o nei locali caldaie, macchine, eccetera. E poi molto di caratteristico, che infatti quando mi capita di captarlo nell'aria mi richiama subito alla memoria i viaggi e i porti. Per esempio, io non posso sentire il profumo della farinata di ceci senza ricordare giusto la spezia, oppure anche, non so, il ketchup ha un profumo porto americano immediatamente. Non posso sentire l'odore, il profumo di un liquore all'anice, tipo il pastis, eccetera, senza ricordare il porto francese. Per cui poi l'odore è particolarmente, i profumi, gli odori, anche le puzze sono particolarmente adatti per stuzzicare la memoria, più delle immagini e di altre cose, insomma, della fotografia o anche le immagini riviste, cioè, no, l'odore che io non posso passare sotto un viale di tigli in fiore senza pensare alla mia infanzia, quel paese della Bassa Padana, eccetera. Per cui l'odore dei porti, però, spessissimo erano odori forti, odori... Beh, la corazzata Andrea Doria, non la nave, la corazzata, la signora, sapeva di Violetta di Parma, che allora era un profumo, altro che lo Chanel numero 5, un profumo di violetta, di viola, un po' sdolcinato, ovviamente, molto caratteristico, lei lo metteva a litri, lo usava a litri, è grande personaggio, la chissà che fine ha fatto, colpo di nostalgia. Quando il mare fa paura e le onde sono leoni e compaiono da niente, marinaio di 20 anni, non guardare su nel cielo, cuore cederà, e l'olandese volante che va. In nave c'è sicuramente molto tempo per leggere, e Giuseppe me lo conferma. Vabbè, io avevo due zaini, uno regolamentare del corredo personale, eccetera. L'altro era uno zaino di libri, ogni volta, ed erano spessissimo dei libri di avventure, di viaggi, eccetera, specialmente americani, perché come viaggiano gli americani non viaggia nessuno, veramente, proprio il viaggio, dal viaggio sulla strada di Kerouac o al viaggio alla Melville, alla Conrad, eccetera. E anche il viaggio dentro l'America, così raccontato dai vari Steinbeck, eccetera. E anche così il coso di raccontare il mare, come lo raccontano il mare gli americani, gli inglesi. Noi siamo uno strano paese proteso sul mare senza una letteratura di mare. si contano solo, sì, 48 Gambini, Brignetti, pochissimi gli scrittori di mare, proprio che scrittori che hanno raccontato il mare, eppure siamo una nazione proprio con tanti porti, con poi non ci sono degli scrittori di mare, non abbiamo avuto lo stesso Salgari, poverino, bravo, simpatico, però credo che abbia fatto una, lui si presentava come comandante, come capitano di nave, e ha fatto una navigazione, mi sembra, da Venezia a Trieste, una robina del genere, proprio ridicolo. Il resto era tutta fantasia, naturalmente, ma, ripeto, veri scrittori di mare, stranamente non ne abbiamo mai avuti e non ne abbiamo ancora oggi. Considerazione sulla quale riflettere. Per concludere, gli chiedo quale dei porti da lui visitati sia davvero imperdibile, anche se non sono più quelli di una volta, soprattutto per le frequentazioni. E un ultimo pensiero, giustamente, va al porto più accogliente che Giuseppe, insieme a generazioni di marinai, abbia mai visitato. Bella domanda. Sì, dal punto di vista estetico, proprio di com'era, resta Marsiglia. Il recupero del vecchio porto di Marsiglia, il faro, tutto quanto, sicuramente. Come ambiente di retroporto, eccetera, i Carugi di Genova, eccetera. E poco altro veramente. Beh, sono stato di recente, un paio d'anni fa, a Copenaghen, ecco, la zona del porto di Copenaghen è ancora molto, ecco, forse direi Copenaghen, la zona dove c'è la Sirenetta, presente la Sirenetta, ecco, quella zona lì. Si respira anche come odore, proprio l'odore del porto di un tempo, le persone anche che ci sono, eccetera. Mancano l'entroenesimo, manca la corazzata Andrea Dori, me lo lasci dire con nostalgia. Ora Giuseppe Pederiali è in libreria con Il Ponte delle Sirenette, edito da Garzanti. Le sirene ti parlano di te, quello che eri, come fosse per sempre. Le sirene non hanno coda né piume, cantano solo di te.